Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla vigilia di storiche elezioni, quelle negli Stati Uniti che si svolgeranno martedì prossimo. In bocca al lupo agli americani, ma questa loro scelta sarà una scelta che ci riguarda tutti, ovviamente. E per prepararci allora a questa scadenza vi segnalo il libro di un illustre studioso degli Stati Uniti e della sua politica, Giuseppe Mammarella, professore emerito a Stanford e autore di Dove va l'America, pubblicato dal Mulino, 200 pagine, 14 euro. Mammarella qui parte dalla constatazione che, quale che sia il giudizio che ciascuno di noi può dare su Trump, la sua presidenza ha segnato una svolta epocale della politica estera americana e quindi della politica mondiale. Di questa presidenza, giunta al termine del primo mandato, Mammarella fa una sorta di bilancio, mettendo insieme i fatti e affrontando le questioni più importanti sulle quali l'influenza delle scelte di Trump si è fatta più sentire: i rapporti con gli alleati e con l'Europa, la politica commerciale, il ritorno al protezionismo, la guerra fredda con la Cina, ma anche aspetti importanti di politica interna come la culture war, la guerra culturale determinata dalla crescente ansia della classe media di perdere le posizioni acquisite anche per effetto della crescente immigrazione. Sinteticamente Mammarella ci fa la cronistoria di questi quattro anni, ci fa capire le implicazioni generali delle scelte che ha fatto Trump e resta molto preoccupato anche alla luce del Covid che le sfide interne e quelle internazionali possano rafforzare le prospettive di un futuro di incertezza e di instabilità. Ma sentiamo l'autore. Buonasera a Giuseppe Mammarella. Buonasera, buonasera. Giuseppe Mammarella, lei nelle prime pagine del suo libro ricorda un suo precedente libro, America First, pubblicato un paio d'anni fa, nel quale, come lei scrive, cercava le origini della nuova politica non ancora chiaramente delineata e questa politica oggi, aggiunge, alla fine del mandato quadriennale si è precisata, al di là dei molti dubbi e delle aspre critiche che lo hanno accompagnato. Ecco, qual è allora il suo giudizio finale? Come può aggiornare quel primo giudizio di due anni fa? Com'è stata la politica di Trump? Senta, distinguerei intanto la politica estera e la politica economica, che sono forse i due campi in cui Trump ha realizzato alcuni successi. Per esempio, prima del Covid-19 la disoccupazione in America era quasi scomparsa, era al 3-4%, uno dei dati più bassi di tutta quanta la storia economica. Poi c'è stato quella riforma fiscale che praticamente ha abbassato le tasse sulle corporation, sulle aziende, dal 35 al 21, e tutto questo, insomma, ha dato a Trump la reputazione di essere un buon gestore dell'economia americana. Infatti tutti quanti i dati relativi anche a rapporti fra lui e Biden sono sempre a favore dell'economia di Trump. E poi la politica estera. Devo dire che Trump ha garantito praticamente un periodo di pace di cui il paese aveva bisogno dopo le guerre di Bush. E ha continuato praticamente una politica già iniziata da Obama, cioè la politica di retrenchment con il ritiro dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Africa settentrionale, eccetera. Quindi queste sono le due. Fino a qualche mese fa, prima del Covid, le azioni di Trump erano molto alte e soprattutto la gestione del Covid che ha, diciamo così, probabilmente trasformato un po', influito sull'opinione della gente. Infatti oggi come oggi i polls dimostrano che Biden è almeno 10 punti avanti Trump, però non bisogna dare troppa fiducia ai polls perché molta gente non confessa di votare per Trump. È quasi uno status symbol in America, sta diventando. Ci sono anche dei membri dell'upper class che probabilmente votano per Trump, ma non lo dicono. Quindi in questo senso dico ci potrebbero essere delle sorprese. Ecco. Per quanto riguarda la politica internazionale, lei affronta due temi che sono molto importanti e che ci riguardano da vicino. Il primo è il tema del rapporto con l'Europa e con la NATO. Che cosa è successo di irreparabile in questo con la presidenza Trump? La volontà di Trump di chiudere il rapporto con l'Europa praticamente, c'è stati dei momenti, specialmente nel 2000, 2017-2018, in cui in occasione di incontri alla NATO Trump ha minacciato addirittura di ritirarsi dall'alleanza, e sono convinto che se ci fosse un'altra amministrazione, un altro mandato per Trump, se Trump venisse rieletto, credo che l'alleanza atlantica sarebbe in pericolo. L'altro grosso problema della politica estera americana è stata e continuerà ad essere i rapporti con la Cina. Trump ha gestito con una certa abilità questo rapporto, perché pur assumendo delle posizioni molto dure nei confronti della Cina, soprattutto in fatto di tasse al commercio internazionale, ha mantenuto però un ottimo rapporto personale con Xi Jinping, che poi è la cosa forse più importante. Quindi in questo senso, se domani la politica estera fosse condotta dai democratici, non prevedo nessun cambiamento significativo nei rapporti con la Cina. Ormai una specie di guerra fredda fra la Cina e gli Stati Uniti è stata dichiarata e probabilmente andrà avanti nei prossimi anni. Quindi se vincesse Biden probabilmente molte cose non cambierebbero. Che cosa potrebbe cambiare con Biden invece? Potrebbe cambiare la politica sociale. C'è una forte pressione da parte della sinistra all'interno del Partito Democratico, una sinistra che è stata molto, diciamo così, silenziosa durante questa campagna elettorale, perché gli è stato chiesto di essere, per esempio Sanders, che è stato così presente durante tutte le primarie, praticamente si è defilata durante la campagna elettorale. Ma l'accordo è questo: ormai c'è un 30% del Partito Democratico che è in mano alla sinistra, e anzi ci sono alcuni commentatori che potrebbero ipotizzare la possibilità di una rottura all'interno del Partito Democratico se la sinistra non otterrà quello che desidera. Cosa desidera la sinistra? Riforme sociali, riforme soprattutto nel campo dell'istruzione, l'università aperta a tutti, le riforme nel campo medico, nel campo dell'assistenza medica. Tra l'altro, alcuni giorni dopo le elezioni verrà discussa la questione dell'Obamacare nel Parlamento, e probabilmente vedremo scintille perché uno degli obiettivi di Trump è quello di praticamente di annullare la riforma di Obama. Ecco, quindi questa è la possibilità. C'è la possibilità che all'interno del Partito Democratico ci sia un vero e proprio conflitto proprio sul tema delle riforme. La parte, diciamo così, moderata è favorevole alle riforme, ma non fino alle richieste della sinistra, che evidentemente sono richieste per cui l'America non è ancora pronta. A proposito dei democratici, lei ricorda un commento che fece l'Economist nel 2016, secondo il quale il principale contributo alla vittoria di Trump era venuto dal Partito Democratico. Sarà ancora così? Se dovesse vincere? No, perché il Partito Democratico aveva scelto un rappresentante, la Clinton, che non era popolare, anzi la Clinton era la stessa cosa praticamente non sta succedendo questa volta, perché Biden non è un grande presidente, non sarà un grande presidente, infatti gli hanno messo accanto la Kamala Harris, che come vicepresidente praticamente è destinata a succedergli per un secondo mandato che probabilmente Biden non sarà in grado di fare. Però Biden è simpatico, Biden è accettato soprattutto dalla minoranza nera, e questo è importante. Poi Biden ha soprattutto il sostegno molto forte, molto importante di Obama. Proprio l'altro giorno Obama ha parlato in Filadelfia, dove c'è una certa difficoltà apparentemente per il Partito Democratico, e ha sostenuto fortemente, ha chiesto praticamente di votare per Biden apertamente, dicendo che in fondo il futuro dell'America potrà essere in larga misura influenzato da questa scelta. E nelle prime pagine del suo libro lei indica gli elementi per cui l'America comunque può contare su uno scenario abbastanza ottimistico, si può pensare a una ripresa, diciamo, degli Stati Uniti, però accanto a questo scenario ottimistico ci sono anche i rischi che il paese sta correndo, lei scrive. Allora, in questo momento che cosa prevale lei, la fiducia o più l'incertezza e il pessimismo sugli Stati Uniti? Beh, è un grosso punto interrogativo. Io penso che sul piano economico una volta che si conclude la pandemia ci sarà una ripresa molto rapida, di cui già qualcosa si è visto negli ultimi mesi, quindi non su questo piano. E il problema è un problema politico, perché si è rotto il meccanismo, quel meccanismo che garantiva l'alternativa fra democratici e repubblicani nel governo del paese, anche perché nel frattempo sta prevalendo quello che in America era sempre stato tenuto fuori dalla porta, l'ideologia. La politica è sempre stata lontana dalle ideologie, è sempre stata governata da un solito pragmatismo. Oggi prevale invece la paura. Una parte della società bianca è spaventata dalla crescita delle minoranze che in breve potrebbero diventare maggioranze, ecco. E quindi c'è un ritorno del razzismo. Il razzismo è sempre stato uno dei grossi problemi dell'America, ma oggi veramente rischia di influenzare la politica del paese in una misura, direi, forse preoccupante, perché si prospetta l'immagine di un paese dominato dagli afroamericani e dai latinos, e questo è inaccettabile per la maggioranza bianca, una maggioranza che oggi è tale ma che fra qualche anno potrebbe perdere il controllo del paese, nel senso che le minoranze potrebbero superare numericamente, politicamente, le maggioranze. E le minoranze hanno realizzato proprio in questi anni, soprattutto nelle ultime midterm, l'importanza del voto. Infatti credo che i risultati di questo voto sono legati alla partecipazione elettorale delle minoranze. Abbiamo visto alla televisione le lunghe file di votanti fuori dalle stazioni delle polls, dove appunto la gente ha aspettato ore e ore per poter votare. Quindi quello della partecipazione alle elezioni sarà un dato estremamente importante per giudicare non solo i risultati di questa elezione, ma anche il dopo. Grazie a Giuseppe Mammarella, autore di Dove va l'America. Buona serata. Grazie. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Chi vincerà tra Joe Biden e Donald Trump? Gli americani sono chiamati a scegliere il loro nuovo presidente. Il 3 e 4 novembre Radio 24 racconterà il voto negli Stati Uniti con ampie finestre nelle edizioni del giornale radio e con appuntamenti speciali. Martedì 3 novembre Effetto Notte di Roberta Giordano raddoppia e va in onda dalle 21 alle 23 in una versione tutta americana con i collegamenti dagli Stati Uniti di Riccardo Barlam e Marco Valsania. Mercoledì 4 novembre alle 6 del mattino Gigi Donelli conduce lo speciale Elezioni Americane 2020 con aggiornamenti dalla notte elettorale. Alle 18 Focus Economia di Sebastiano Barisoni punta i microfoni oltreoceano insieme a Sergio Nava per tentare una prima sintesi del voto negli Stati Uniti. Elezioni Americane 2020, sfida per la Casa Bianca. Naturalmente qui su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di alcuni libri che hanno a tema o a scenario gli Stati Uniti. Il primo è quello di un'autrice italiana, Simona Siri, che con Dan Gerstein ha scritto Mai stati così uniti, che cosa ho capito dell'America litigando con mio marito americano. È pubblicato da Tea, 292 pagine, 15 euro, tradotto per la parte di Gerstein da Ludovica Mauri. L'autrice è una giornalista che scrive per vari giornali italiani dagli Stati Uniti, dove vive ormai da 7 anni. Degli Stati Uniti l'autrice è davvero innamorata, e negli Stati Uniti ella ha trovato marito, appunto Gerstein, che interviene nel libro a raccontare la propria versione dei fatti. Perché Siri qui spiega come si è evoluto il suo sentimento sugli Stati Uniti partendo proprio dal matrimonio americano. E il libro si avvia esattamente 4 anni fa, quando la sera dell'8 novembre la coppia, molto speranzosa e fiduciosa, si reca elegantemente abbigliata a una festa organizzata per festeggiare la pressoché certa elezione di Hillary Clinton alla Casa Bianca. Siri è eccitata dall'idea di vedere arrivare la prima donna alla presidenza, ma nel corso della notte elettorale le cose prenderanno, come sappiamo, una brutta piega per l'autrice con l'elezione dell'insopportabile per lei Donald Trump. Il marito, che aveva fatto per anni il consulente politico a Washington, ammutolisce e non trova altro rimedio che piombare nel sonno, non senza essersi sentito dopo quasi un traditore come americano delle speranze che la moglie aveva manifestato sugli Stati Uniti. E da qua parte lo sviluppo del libro, con le varie tappe del matrimonio e del confronto scandito dalle due versioni, quella di lei e quella di lui, che ci danno una visione dell'America profonda, ironica, affettuosa e ricca di sfumature che per esempio emergono anche nell'epilogo, datato appunto 3 novembre 2020. Simona la vede così. Se Dan mi risponde snocciolando tutti i sondaggi che danno il candidato democratico Joe Biden in testa su Trump, io mi irrito. Perché penso che, come 4 anni fa, lui non veda la realtà ma una sua versione ottimizzata e ottimista che rischia di farci rivivere la delusione del 2016. Se invece mi risponde dicendo che Trump vincerà di nuovo e dobbiamo farcene una ragione, io sbotto dicendo che allora bisogna rimettere in discussione tutto perché io ho altri 4 anni così, neanche morta. Essendo guidato da un per me inspiegabile ottimismo di fondo, ho capito che sotto sotto pensa che alla fine Trump non sarà rieletto. Ma non lo dice per scaramanzia. Questa visione rosea della realtà è esattamente l'opposto della mia, molto più basata su andrà tutto male, lo sai che andrà tutto male, e se invece va bene, tanto di guadagnato. Lui chiama il mio cinismo, io chiamo il suo eccesso di ingenuità. E questa è la versione di Dan. Questo graduale allontanamento da Trump da parte di una fetta considerevole dei suoi sostenitori meno irriducibili ha iniziato a ripristinare la mia fede nella nostra politica. Segnala che per quanto siamo profondamente divisi e diffidenti, ci sono limiti a ciò che gli americani tollerano dai leader della loro stessa tribù. Le infinite bugie che Trump ha continuato a raccontare e Fox News ha continuato a diffondere non ha più potuto mascherare il profondo dolore che sempre più americani provavano a causa della sua forma di leadership ignorante, negligente ed egoista. Se Trump dovesse perdere, tuttavia, la domanda più grande rimarrebbe e riguarderebbe la possibilità di unirci in modo duraturo per affrontare verità altrettanto brutte che abbiamo appreso sull'America durante questa crisi. Male che vada, possiamo sempre trasferirci in Italia. Uno degli ultimi argomenti in ordine di tempo che appassionano Simona e Dan, di cui ha fatto un cenno anche Giuseppe Mammarella, è naturalmente quello delle proteste, del razzismo e le proteste che sono sfociate nel movimento Black Lives Matter e nel difficile dibattito sul cosiddetto razzismo sistemico, strutturale o istituzionale che si riferisce, scrive Siri, a quei sistemi e strutture che portano a svantaggiare gli afroamericani in praticamente ogni aspetto della vita, da quello economico a quello della salute. Più che indicare un atteggiamento o un singolo comportamento, il razzismo sistemico è un insieme di leggi e procedure che negli anni hanno contribuito a mantenere i cittadini di colore in una situazione di inferiorità economica e sociale. E questo difficile rapporto degli americani con se stessi è al centro di un libro che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, intitolato Fragilità bianca, perché è così difficile per i bianchi parlare di razzismo, di Robin D'Angelo, grande esperta del tema, docente di educazione multiculturale, pubblicato da Chiare Lettere, 256 pagine, €17,90, tradotto da Elena Cantoni. Il libro è in certi punti anche molto polemico e si apre richiamando il peccato originale degli Stati Uniti, quello del tentato genocidio dei popoli indigeni e del furto delle loro terre. E poi il libro prosegue ricordando come la ricchezza della nazione è stata costruita sullo sfruttamento degli africani deportati e schiavizzati e dei loro discendenti. Le donne, aggiunge, si sono viste negare il diritto di voto fino al 1920, le afroamericane fino al 1965. E difende intende quindi l'autrice la politica delle identità, una politica che fa molto discutere, molto contestata da tanti studiosi, anche liberal, una politica che, sempre secondo l'autrice, avrebbe consentito di prendere coscienza di questi problemi. E quindi l'autrice bianca, come la stessa precisa sottolinea, ai bianchi si rivolge con questo libro per aiutarli a esercitarsi, scrive, nella capacità di sostenere un esame critico della nostra identità di appartenenza, un antidoto necessario per la fragilità bianca. D'Angelo vuole spiegare il razzismo ai bianchi, insomma illustrare loro come le loro vite siano plasmate dalla razza, come nasca l'avversione per i neri e la fragilità bianca, appunto, come si manifesti, dove possa condurre, per concludere che ai bianchi non basta essere gentili con le persone di colore, occorrono coraggio e intenzionalità, un comportamento attivo. E a questo punto il confettino. Una delle prime eroine delle lotte antisegregazioniste è stata Claudine Colvin, che il mese scorso ha compiuto 81 anni e che nel 1955, a 16 anni, a Montgomery, in Alabama, anticipò il gesto di Rosa Parks, rifiutandosi di cedere il posto sull'autobus a una donna bianca. E per questo fu arrestata, giudicata, condannata e diventò un'attivista sempre più convinta. Ora la sua storia è raccontata ai ragazzi da Émile Plateau in Nera, la vita dimenticata di Claudette Colvin, adattato da un libro di Tania De Montaigne e tradotto da Silvio Mercurio per Einaudi Ragazzi, 136 pagine, 13,90 €, che racconta con immagini e parole l'impegno della giovane Claudette. E gli Stati Uniti, tornando agli adulti, sono il dispersivo scenario nel quale si compie un viaggio molto particolare, quello della signora Pival, la protagonista del romanzo di Lia Franchi, autrice di teatro e di serie per il web, che si intitola Il figlio americano, è pubblicato da Storia, 322 pagine, 20 €, tradotto da Cecilia Vallardi. Pival è una vedova indiana sposata a un agiato esponente borghese di Calcutta, una donna considerata tranquilla e remissiva, che all'improvviso turba la servitù annunciando, dopo la morte del marito, che intende recarsi negli Stati Uniti. Si affida a un'agenzia di viaggi specializzata per servire clienti provenienti dall'India, ma il suo, scopriremo subito, non sarà un viaggio di piacere. Degli USA, infatti, a Pival interessa poco, se non conoscere che fine vi abbia fatto il figlio, Rai, che era andato via da casa e dall'India per rifugiarsi appunto negli Stati Uniti, per la precisione in California, dopo aver rotto con il padre, soprattutto con la madre, ai quali aveva comunicato la propria omosessualità. La signora appare ai suoi accompagnatori talvolta svagata e distratta, e l'America che le passa sotto gli occhi è quella che lei si immagina di vedere con gli occhi del figlio. E alla fine la verità, che smonterà molti suoi pregiudizi e sue ostilità per farla riappacificare col mondo e con la California, anche così libera, col compagno del figlio, e tornare a casa per un ultimo definitivo colpo di scena. Prima di lasciarci e di lasciare gli Stati Uniti, vi ricordo che venerdì prossimo, il 6 novembre, si conclude il mese dell'educazione finanziaria, che quest'anno è stato indirizzato alle scelte finanziarie possibili o necessarie ai tempi della pandemia. Questa iniziativa vuole favorire le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali, di gestione e programmazione delle risorse finanziarie. È ottimo strumento per avvicinarsi alla conoscenza di questi temi è il libro di Mauro Del Corno, giornalista economico che ha lavorato a questa radio, attualmente nella redazione del programma televisivo Sono le 20, autore di La finanza spiegata bene, 11 lezioni di finanza spicciola dall'oro al cigno nero, è pubblicato da Guerini Next, 174 pagine, 15 €. Del Corno prende atto che c'è una maggiore attenzione verso i temi della finanza e dell'economia, ma anche del fatto che questa si accompagna con un'altrettanto diffusa, scarsa conoscenza di come funzionino la finanza, le istituzioni finanziarie, i nessi tra finanza ed economia. Tutti parliamo per esempio di tassi, di spread, ma non sempre tutto ci è chiaro, e allora Del Corno ci prende per mano e ci spiega con un linguaggio chiaro, senza tanti numeri e con un solo grafico, il significato e l'importanza di tanti fenomeni finanziari. Si parla dunque di denaro, di banche centrali, di inflazione, poi di blockchain, di bitcoin, di banche, di strumenti dalla fama ormai sulfurea come derivati e delle condizioni attuali mai sperimentate dei tassi di interesse negativi, degli effetti della globalizzazione, della diffusione delle diseguaglianze. E qui appunto troviamo l'unico grafico, il famoso grafico dell'elefante, quello che dimostra la sofferenza della classe media che si è manifestata in tutto il mondo negli ultimi anni. si parla ancora della spinta diabolica a fare debiti, del tema di questi giorni, ossia del risparmio e dell'approccio migliore per i risparmiatori e delle prospettive future, nonché del cigno nero rappresentato appunto dal coronavirus, che dovrebbe riaffermare la regola aurea: state calmi se potete e valutate prendendo bene le vostre decisioni, le vostre prospettive e le vostre alternative. Insomma, un libro chiaro e stringato che presenta i temi essenziali e adempia la funzione perseguita dallo sforzo di diffondere la consapevolezza che la finanza possa anche difendere i portafogli dei risparmiatori. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.